Eccoci qua, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Con qualche problemino tecnico, ma sta iniziando prove tecniche di trasmissione anche per oggi, mercoledì 11 ottobre del 2017. Il nostro contatto telefonico è 06 49 17 50, il sito internet utile anche per ascoltarci in streaming è www.ondarusse.info. Per quanto riguarda le comunicazioni mediante posta elettronica ondarossa@ondarossa.info. E per quanto riguarda questo spazio c'è una pagina Facebook che è Prove Tecniche di Trasmissione Disorder e anche la bacheca del sottoscritto DJ Elettrodo. Cominciamo con il salutare Alessandra qui da Roma, Raffaele Pezzella di Unexpected Sounds da Napoli, Maya dall'Argentina, dalla lontana Argentina, Giovanni Lisi da Bari, Sisto Palombella dalla provincia di Mantova, il buon Gianluca Becuzzi dalla Sardegna, da Roma ancora Like Awake. E a Becuzzi dico anche che c'è chi in passato usava prove tecniche di trasmissione come colonna sonora per guardarsi chi l'ha visto, chissà se lui intendeva questo. In ogni caso a noi si va ad iniziare ricordando che anche il palinsesto dovrebbe prevedere 25 o'clock intorno alle 22.30, vedremo se poi la mia impressione è giusta oppure meno. Cominceremo naturalmente con la magica fisarmonica di Sisto Palombelli, del quale devo anche menzionare una nuova uscita attraverso proprio Unexpected Sounds di Raffaele Pezzella, una compilation. Noi abbiamo avuto una sorta di piccola anteprima, diciamo, autoprodotta, chiamiamola così, di varie tracce proprio del maestro Sisto Palombella. E quindi noi ci andiamo ad ascoltare Nature Verse e simulazione di suoni elettronici. Thank you. Ancora Sisto Palombella e il suo magico strumento da questo compendio, eccola qua, simulazione di suoni elettronici. Thank you. una vecchia registrazione dell'85, ancora con Revox a bobine, come ci dice il buon Sisto. Esempio di modernariato, dunque. Ma bella traccia, indubbiamente. L'armonica, la fisarmonica trattata e non di Sisto Palombella, che ascolteremo anche nelle prossime settimane, aspettando questo Smell Pieces of Accordion on the Broken Table, mi sembra di leggere, album diciamo ufficiale di Sisto Palombella, rintracciabile su An Express Sounds, etichetta online e non solo. Dunque era Sisto Palombella, sempre Onda Rossa, 21 e 21, qui con prove tecniche di trasmissione. Ed è il turno di Raffaele Pezzella, ormai colonna anche di questi spazi, lo conosciamo come produttore di suoni, di compilation, e che ci ha fatto conoscere tante scene anche abbastanza ignote, come questa qua iraniana, che possiede veri e propri talenti. Una compilation che si chiama Visions of Darkness in Iranian Contemporary Music, che uscirà anche in una edizione attraverso la Cold Springs Production, un'etichetta famosa per chi mastica industrial e dintorni. Stasera ci andiamo ad ascoltare altri due artisti, DSM con No Roots e poi Edith con DT. Thank you. Sasan Amnis Fasfar, giovanissimo produttore DJ iraniano sotto lo pseudonimo DSM. Si va oltre, dunque, altra traccia estratta dalla medesima compilation. Lui è IDFT. Ricordo da questa compilation uscita anche in una versione attraverso la Cold Springs. altre due parole su questa compilation, con questo, diciamo, fatto un po' particolare, cioè ho detto che Visions of Darkness eccetera eccetera verrà venduta anche attraverso la Cold Springs etichetta inglese. Ebbene, in Inghilterra il titolo è stato cambiato ed è stata tolta la parola Iranian, perché in Inghilterra, in Gran Bretagna, attualmente la parola Iran è censurata. Episodio abbastanza incredibile, se vogliamo. Un esempio di censura, una grossa caduta di stile, devo dire. Sisto Palombella ci ricorda giustamente che durante il fascismo Louis Armstrong veniva chiamato Luigi Braccioforte, perché allora bisognava essere autarchici. Andiamo oltre comunque e salutiamo dunque ancora Raffaele Pezzella e andiamo avanti per l'appunto con quest'altra uscita proveniente, e si torna in Italia, dal nome Empty Chalice. Antonio Aroldi è dietro questo progetto di ispirazione più ritualistico-esoterica, con la collaborazione di Mario Cardinale in sede di produzione attraverso la sua etichetta, la Industrial Holocaust Recordings. E questa sera ci andiamo ad ascoltare almeno una parte di Stolen Breath and Destroyed Hope. aleggia un'inquietudine profonda in questa traccia di Empty Chalice. La giusta tensione che caratterizzava questa traccia di Empty Chalice. Eccolo qua, Gianluca Becuzzi e Massimo Olla in questo ultimo lavoro Red Room. Rivisitazione di vecchie cavalcate popolari, almeno così dovrebbe essere. E questa sera tocca Love Harry e 13 per Gianluca Becuzzi alla voce, Massimo Olla agli strumenti, anche autocostruiti. Give her a kiss so sweet. She drew her penknife in her hand, wounded him full deep. I was born to be in trouble to wherever I met. Golden number 13 tattooed on my neck. I pray I don't look at me, I pray I don't look back. I was born in the soul of misery. Never had me a name. They just gave me the number when I was young. They just gave me the number when I was young. Gonna find me a preacher man confessing all I've done. Or you can catch me with the devil playing 21. But luck wind been blowing at my back. I pray at dawn. Pray I don't look back. I was born in the soul of misery. Never had me a name. They just gave me the number when I was young. They just gave me the number when I was young. They just gave me the number when I was young. Age. just gave me the number when I was young. Dunque menzioniamo l'ottimo lavoro di Gianluca Becuzzi e Massimo Olla, uno split, una collaborazione che partorisce Red Room, ottimo lavoro. La splendida voce di Gianluca Becuzzi e le trovate, gli arrangiamenti di Massimo Olla, non ultimo questi interventi di chitarra alquanto lancinanti, e soprattutto questa traccia, questa 13. Album che ascolteremo anche la prossima settimana con l'ultimo episodio che sta andando adesso sotto la mia voce, questa Two Sisters. Gianluca Becuzzi, noto anche per la sua, come dire, capacità staccanovista, giacché è anche in dirittura d'arrivo, anzi è già arrivato in giro, Kinetics insieme a Corrado Altieri, un lavoro che non so se ricalchi le vecchie trame minimalistiche del passato, non credo, ma da quanto leggo qui, e lo ascolteremo presto anche qui su queste frequenze di Radio Onda Rossa. Ringraziamo ancora Gianluca Becuzzi e tornerei un attimo indietro alla Nespless Sounds, nominando il gruppo appunto di appassionati, un gruppo Facebook che consiglio caldamente anche per chi volesse rendersi più informato sugli innumerevoli artisti iraniani della compilation di qui sopra. Infatti di ognuno c'è un minimo di biografia ed è molto interessante andarsela a leggere in una dimensione più tranquilla anziché questa trasmissione che magari talvolta va un po' di corsa. Adesso un bel salto, si va in Cina e lo facciamo con un personaggio, una ragazza che si fa chiamare Pan Daijing. Un nuovo talento che ricalca in qualche modo le orme delle, tra virgolette, più note Pharmacon e più Simeri, anche se qui il tutto è leggermente più smorzato. L'album di esordio si chiama Luck, esce in Germania, già che Pan Daijing vive a Berlino, e ci ascoltiamo Phenomenon e Practice of Igen. above, below. Hi. Xavier Carr. Christmas. We're doing a treat. Do you like fruits? No way. It. Say, say, say. Excuse me. Hit me up. Why do we have to? Soft. Oh.